Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con un noto personaggio della cultura italiana, è stato anche ministro della cultura, è stato un deputato del Partito Democratico, attualmente è il direttore dell'Istituto Italiano dell'Enciclopedia, la Treccani per intenderci. È direttore da poco tempo, ma è già molto attivo, e tra l'altro la prima iniziativa, diciamo così, che ha firmato direttamente è un facsimile del libretto del 25 aprile 1926, quando andò in scena alla Scala la prima assoluta di Turandot sotto la bacchetta di Toscanini. Ecco, il facsimile è stato distribuito appunto alla sera del 1° maggio, quando si è aperta anche questa stagione straordinaria dell'Expo con la direzione di Riccardo Scei, ed è stata data la Turandot con il finale di Berio. Noi l'abbiamo in linea e per noi è un onore e un piacere, oltre che ovviamente un'occasione per parlare di musica e di un istituto così importante anche per il lavoro che ha fatto con la musica, la Treccani appunto. Buonasera dottor Brai, professor Brai, io non so come chiamarla, ma ha tante cariche, dovrei chiamarla ministro ancora, ministro della cultura, tutti ce lo ricordiamo per una serie di ottime cose, quindi buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera. Ecco, io non so, mi corregga se sbaglio nei titoli, nelle cose, ma questo libretto tra l'altro era delizioso, perché appunto distribuito per questa serata, poi sarà a disposizione eventualmente per la Treccani, e pensate, quella sera Arturo Toscanini diresse la prima di Turandot. Puccini era morto ormai da un paio d'anni, un anno e mezzo, e il maestro si commosse perché al punto in cui Puccini aveva interrotto la partitura, cioè l'aria di Liu, tu che dice il 600, interruppe, fece accendere le luci, depose la bacchetta e disse: qui il maestro è morto, e non volle più continuare con il finale allora di Alfano. Brai, cosa possiamo aggiungere a questa scena, al fatto che voi avete riprodotto questo bellissimo facsimile che era nell'archivio Ricordi, in vari pochissimi esemplari, insomma? È stato, come dire, un grande omaggio appunto alla maestria di Puccini da una parte, dall'altra Treccani sta celebrando i suoi 90 anni appunto, dal 1925 al 2015, il nostro istituto segue la sua attività al servizio della cultura italiana, e questa importante scadenza coincideva con l'inaugurazione a Milano di Expo una settimana fa, e quindi in occasione di un importante concerto con cui si voleva festeggiare appunto un'opportunità per tutto il nostro paese di ricordare la sua storia, di proiettare questa storia nel futuro, Treccani voleva rinnovare il proprio impegno nella ricerca e nella valorizzazione di tutte quelle tracce della cultura che hanno creato una storia importante come quella di pochi altri paesi, proprio sul significato di cultura e in questo caso su un'espressione così importante come la musica. Certo, io aggiungo soltanto che per accostare le parole alla musica andiamo a riprendere un Pavarotti d'antan. Tutti sappiamo che il tenore della prima è stato giudicato leggermente inferiore a Liu, insomma qualcuno ha detto ma ci voleva un tenore più deciso, altri hanno detto no, andava bene. La sera prima, neanche a farlo apposta, in Piazza Duomo il 30 aprile c'è stata una specie di concerto d'anteprima con Boccelli e Lang Lang, e anche Boccelli ha cantato in particolare Nessun dorme. La prima, diciamo, notizia è stata la riproduzione in facsimile del libretto originario di Turandot quando andò in scena per la prima volta alla Scala il 25 aprile del 1926 con Arturo Toscanini. Puccini era da poco morto e ovviamente ci fu molta emozione in sala. Dottor Brai, io molto semplicemente volevo dirle che c'era una piccola aggiunta a questa notizia, perché la Treccani scrive che in occasione degli eventi Expo Milano 2015 vi abbiamo riservato un altro dono musicale esclusivo in tiratura limitata, per l'assegnazione del quale vi invitiamo a contattarci. Di che cosa si tratta, dottor Brai? Per la prima volta, come dire, Treccani avverte la necessità di, come dire, un impegno diretto nel mondo della musica, perché da una parte sottolineiamo come nel nostro paese si faccia troppo poco per l'insegnamento della musica. È vero che siamo cittadini tutti di una nazione dove sin dalle prime riforme post-unitarie del 1877 la musica non era vista, come dire, al centro dell'attenzione di un percorso scolastico. Però è anche vero che oggi notiamo come tutta l'editoria relativa al mondo della musica, con tutta quanta la ricchezza di questo mondo che rappresenta davvero una parte fondamentale della cultura italiana, stenta ad andare avanti. Ecco perché vorremmo in qualche misura indirizzare alcune delle scelte che faremo del catalogo Treccani proprio verso la musica, e quindi stiamo valutando la possibilità di arricchire una collana che è uscita 2 anni fa, che si intitola Il contributo italiano alla cultura internazionale, proprio con un volume dedicato appunto a quelle che sono le forme principali del linguaggio musicale. E questo sarà il primo impegno che Treccani metterà in campo e che vogliamo portare a conoscenza di tutti i lettori treccani, che sono molti in Italia. Un secondo impegno è nella mostra che abbiamo organizzato a Roma, al Vittoriano, e che poi svolgerà un suo percorso toccando Milano a Palazzo Morando da luglio a settembre. Anche qui abbiamo dedicato una parte importante dei percorsi multimediali a ripercorrere quelle che sono state alcune voci particolarmente significative che Treccani ha dedicato al mondo della musica sin dall'inizio, perché voglio ricordare che tra i progetti che Giovanni Gentile elabora accanto alla grande enciclopedia italiana c'era appunto un'enciclopedia della musica. Forse è arrivato il momento di dedicare attenzione a questo progetto gentiliano, sperando di colmare appunto un piccolo vuoto ma importante che si è creato nel paese. La tradizione della musica, questo, come dire, è un mio giudizio particolare, deve essere appunto affiancata a quella che oggi si fa nei confronti delle giovani generazioni, di imparare una lingua straniera, di usare un computer, che sono giustamente ritenuti apprendimenti essenziali. Ora, un minimo o, come dire, una buona preparazione riguardante la musica credo che sia necessaria, perché il nostro paese non può, credo, separare la sua storia da quella che è stato il significato della musica. Ripensavo questa giornata appunto ai viaggi di Mozart in Italia, certo, dal 1770 credo al 73, furono ben 3 i viaggi, ma mi colpì molto leggendo anche ultimamente questo bel libro di Alberto Basso, in cui ricorda appunto come il padre di Mozart gli dice: se vuoi fare fortuna nella vita non puoi che andare in Italia e studiare appunto quello che è stato che è stata questa grandissima, il bel canto, questa grandissima espressione della cultura internazionale. E Mozart ce lo racconta nel suo viaggio da Bolzano, Verona, Bologna, Firenze, il Vaticano, Napoli, Milano, Roma, non fa appunto che ricordare l'importanza di questa tradizione. Ora, credo che sarebbe importante, e Treccani avverte questa esigenza appunto, di segnare questa storia, che è stata un po' una storia anche della nostra identità nazionale. E sono convinto appunto che soprattutto in un mondo che così con un termine che utilizziamo tante volte, si è così globalizzato, lavorare sulle identità culturali, sulla difesa delle storie nazionali, su questo senso anche proprio della nazione, che non bisogna assolutamente aver paura di difendere, di ricordare, la musica in Italia occupa una parte importante. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torro dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento telefonico con Roma, con Massimo Brai, direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, dell'Enciclopedia Italiana, la Treccani. Ricordiamo che Massimo Brai ha, tra l'altro, assunto questo incarico ufficialmente da poco. È stato ministro della Cultura, è stato un deputato del Partito Democratico, è stato un professore, è stato altro, ma questo incarico, diciamo, c'è particolarmente caro anche perché una delle primissime iniziative di Brai, diciamo così, come titolare di questa direzione, è stata la riproduzione in facsimile del libretto della Turandot che è stato appunto dato la sera del 1° maggio alla Scala. E ricordo, è un facsimile del primo libretto, quello del 25 aprile 1926, quando Turandot ebbe la prima assoluta. E poi, parlando con Massimo Brai, a parte che abbiamo scoperto che è nato in una famiglia dove si amava la musica, ma in Italia tutte le famiglie amano la musica, chi in un modo, chi nell'altro, ma soprattutto poi c'è questo progetto anche di ripensare o di riportare l'attenzione della massima, diciamo, la massima organizzazione culturale dal punto di vista proprio, diciamo così, sia per il tempo sia per quanto ha fatto la Treccani, per la musica. E ricordava appunto Massimo Brai che già Giovanni Gentile, agli inizi, fondatore insieme a Treccani degli Alfieri, dell'Enciclopedia Italiana, al di là delle voci che sono molto importanti presenti nell'enciclopedia, aveva in mente un qualcosa sulla musica, un forse dei volumi, forse un'enciclopedia sulla musica. E Brai ci ha detto, ci stiamo ripensando perché si è creato un vuoto. Del resto il grande Deum di Alberto Basso non è più stato aggiornato ed è un po' fuori gioco per le vicende appunto della UTET. Massimo Brai, che possiamo sperare in una nuova enciclopedia della musica? Ci lavoreremo con interesse e passione, e mi auguro, come dire, che si possa sottoporre al Consiglio Scientifico dell'Enciclopedia presto un progetto che deve essere un progetto appunto in linea con non solo la qualità delle nostre opere, ma anche con le attese di un pubblico. Come giustamente ha ricordato, tutti gli italiani nella loro cultura, nella loro formazione, nelle loro storie familiari hanno una parte di una cultura musicale. Ecco, questo mi fa essere convinto della necessità che un istituto di cultura come Treccani si impegni nella realizzazione di un'opera. Certamente, e poi diciamolo pure chiaramente, si è creato un po' di vuoto in questi ultimi anni, perché il grande lavoro di Alberto Basso, io non so dopo le vicende della UTET se sia ancora in fase di aggiornamento, se sia ancora allo studio qualcosa, ma certamente non abbiamo notizie, almeno incontrando Alberto Basso qualche volta non mi ha detto nulla. E questo ovviamente servirebbe anche a focalizzare alcuni aspetti. So che avete appunto tra poco, diciamo così, inserito nel comitato scientifico, forse in qualche altro vostro organismo, un musicista vero e proprio, no? Sì, abbiamo fatto questa scelta di chiedere a Ludovico Einaudi di far parte del consiglio scientifico dell'istituto, è un motivo di grande orgoglio, di grande interesse. Ludovico Einaudi, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, con lui ho parlato a lungo anche dei progetti della musica e di quello che si deve fare in Italia per la musica, sarà credo un apporto importante. ripensavo anche a questi nostri 90 anni, proprio sfogliando le pagine di questo bel volume che abbiamo dedicato alla storia dell'Istituto, emerge continuamente da una parte l'impegno di grandissimi storici della musica, dall'altra emerge proprio questo filo rosso che vuole legare quelle che sono state le tracce di un'identità culturale del paese e soprattutto il bel canto. È qualcosa che segna fortemente questa storia, è una storia, come dire, che mi segue e sono contento, è davvero motivo di grande orgoglio anche nell'esperienza fatta al Ministero dei Beni Culturali in questa legge che provammo a definire, che appunto come nome, come titolo, Valore Cultura, uno dei capitoli principali era proprio dedicato alle fondazioni lirico-sinfoniche, a queste 14 realtà straordinarie, 14 realtà che rischiavano appunto di non poter andare avanti per un debito accumulato negli anni, e credo che questa legge dia la possibilità di ripartire a grandissimi teatri come il San Carlo a Napoli, la Fenice, e mi sembra che da parte di tutti coloro che lavorano all'interno di questa realtà la risposta sia stata più che positiva. I teatri stanno, credo, facendo quegli sforzi per dare al nostro paese, alle nuove generazioni, una parte importante di quella tradizione, di quella storia, senza la quale io credo sia difficile immaginare un futuro per il nostro paese. Il primo, diciamo così, atto è stata una sua idea di riprodurre il libretto di Turandot pubblicato per la prima volta per appunto l'esordio dell'opera il 25 aprile del 26, ed è stato riprodotto proprio per la serata del 1 maggio della Scala. E tra l'altro l'Enciclopedia Italiana di Lettere, di Scienze, Lettere ed Arti ha una riga che dice: Puccini ebbe il dono inestimabile di inventare una melodia. Questo per dire come anche la Treccani, con le sue voci, con il suo lavoro, abbia appunto diffuso, ma soprattutto controllato, reso autorevole il mondo della musica, restituendolo chiaramente a una serie di lettori, a una serie di patiti. E abbiamo parlato anche di nuove iniziative che forse dovranno essere sottoposte al comitato scientifico, ma poi Brai appunto ha detto: insomma, a me piace la musica, state tranquilli, qualche cosa di musica la vedrete apparire per la Treccani. Io faccio un riassunto con qualche licenza, chiedo scusa Massimo Brai, ma attendiamo opere di musica dalla Treccani. Però c'è anche altro, no? State facendo un sacco di cose, mi pare. Abbiamo adesso in pubblicazione questo volume, credo molto importante, su quella che è stata l'esperienza di un altro grande italiano, che è Pellegrino Artusi, che pubblica nel 1891 questo trattato famosissimo, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, iniziando, senza saperlo, dobbiamo sottolineare, un'avventura che sarebbe proseguita ben oltre la sua morte, sino a oggi, sino all'importanza come stile di vita, come economia, appunto, del mondo del cibo, dell'alimentazione, a cui è dedicata una parte importante proprio di Expo che si è inaugurata una settimana fa. E facciamo questo lavoro, questa riflessione su Artusi, per vedere proprio come nel paese si è creata questa tradizione intorno al cibo e all'alimentazione. È stato un grande impegno, perché attraverso le pagine di Artusi, attraverso questa sua capacità di codificare una parte della cucina italiana, si notano almeno due filoni. Da una parte c'è questo sforzo, appunto, che attraverso le ricette noi proviamo a definire davvero quella che sarà una lingua nazionale, e dall'altra come dire, si elabora un'idea di cucina che è un'idea di cucina molto diversa da quella che abbiamo oggi. Artusi descrive la famiglia con le sue difficoltà. Il cibo è un cibo appunto che non deve essere soltanto ed esclusivamente una moda, un modo di mostrare qualcosa. Il cibo è qualcosa che tiene uniti, il cibo è capacità di saper fare economia da parte di chi cucinava, che erano molto spesso le donne. Il cibo era qualcosa appunto che riusciva a tenere insieme intorno a un tavolo la famiglia. È un mondo, come dire, che è molto cambiato. Cerchiamo di ricostruire questa storia, cerchiamo di ricostruire appunto anche quella che era la rappresentazione di un cibo e di una situazione economica povera del paese. Però sin dall'inizio in Artusi e grazie ad Artusi si sottolinea la ricchezza di questa tradizione, che appunto certo. È una tradizione culturale, una tradizione che cambia in un lungo itinerario che facciamo nelle regioni italiane. Ecco, Treccani nei suoi 90 anni mette un altro punto fermo. Eravamo partiti con un volume, credo, importante su Milano, in cui utilizzavamo per primi questo titolo Milano al centro del mondo, in cui facevamo vedere che questi cantieri di Expo stavano costruendo una parte nuova, importante della città, proiettandola in un dibattito su quello che è il futuro del pianeta e quindi anche la ricerca di un modello economico compatibile con appunto tutte quelle che sono le necessità di un pianeta che ha zone di grande ricchezza ma anche grandissime zone di povertà, di cui dobbiamo tener conto soprattutto coloro che hanno responsabilità nelle scelte politiche. Dall'altra appunto ripercorrevamo che la storia di Milano è una storia affidata a un percorso storico, artistico di grandissima ricchezza. La città è davvero una delle grandissime città europee, i suoi musei sono musei che raccolgono opere di grandissima importanza e di grandissima bellezza. La sua storia è la storia che ha visto la capacità di creare quel modello di ricchezza culturale, di ricchezza anche industriale. Attraverso le mille oltre pagine di questo libro noi scopriamo appunto che non è un caso che questa città giustamente voglia essere al centro di una realtà internazionale. Massimo Brai, questa serata è volata con lei. Non so, abbiamo sentito i programmi della Treccani, non abbiamo più tempo. Cosa è successo? Beh, no, io vi ringrazio perché è stata davvero una bella serata. Spero di essere riuscito a ribadire l'attenzione della Treccani verso la musica e soprattutto a riconoscere quella pari dignità rispetto alle altre discipline del sapere e del creare. Credo appunto che oggi ci siano veramente molte possibilità di unire la tecnica, il significato, quella che definiamo l'esattezza della ricerca alla fantasia, alla precisione, a volte al fascino dei media. Però appunto per chi credo come un'istituzione debba credere e voglia credere nell'utilità istituzionale di fornire ai nuovi cittadini che stanno crescendo quegli strumenti di un'informazione solida, ecco, l'educazione musicale credo possa consentire di ridurre la distanza che ancora divide parti importanti del nostro pianeta e credo che la musica sia davvero una delle migliori forme per creare quella confidenza con una cultura di cui il nostro paese è davvero ha i suoi tratti costitutivi. Grazie a Massimo Brai e grazie a voi cari ascoltatori. Vi do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Massimo Brai. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.